Davanti a me dal mazzo delle carte, scegline una e ti dirò se è buona la fortuna. Prendine un'altra per sapere se la via dell'amore ti porterà cose buone oppure ti ferirà il cuore. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, le carte si sa che non possono mentire. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, conoscono sempre tutta quanta la verità, almeno quella che tu vuoi sentirti dire. Cominciamo a vedere cosa c'è nel tuo futuro. Tra i segni del destino intravedo chiaramente una vita tutta quanta in chiaro scuro. E di sicuro non ci sarà mai la ricchezza, però vedo che possiedi almeno una moneta d'oro per pagare il mio lavoro. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, le carte si sa che non possono mentire. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, conoscono sempre tutta quanta la verità, almeno quella che tu vuoi sentirti dire. Gira senza sosta l'alternanza della buona e della cattiva sorte. Io so capire cosa c'è nella tua mente, tutti i sogni di una vita o la paura della morte. Io sono solo il portatore sano di un virus capace di nutrirsi di quel bisogno umano, di andare alla ricerca di certezze o di speranze. Ed io son pronto a venderle, ne ho fatto il mio lavoro, costa una moneta d'oro. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, le carte si sa che non possono mentire. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, conoscono sempre tutta quanta la verità, almeno quella che tu vuoi sentirti dire. Davanti a me dal mazzo delle carte, scegline una e ti dirò se è buona la fortuna. Prendine un'altra per sapere se la via dell'amore ti porterà cose buone oppure ti ferirà il cuore. Io sono l'indovino che indovina, oppure prova a indovinare quanti soldi hai nelle tasche per poter pagare, per poter pagare. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, le carte si sa che non possono mentire. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, conoscono sempre tutta quanta la verità, almeno quella che tu vuoi sentirti dire.